696. Mele in gelatina. Prendete mele Rennet o di alta qualità fine, non tanto mature e grosse. Levatene il torsolo col cannello di latta, sbucciatele via via, gettatele nell'acqua fresca ove sia stato spremuto mezzo limone. Se tutte insieme fossero un quantitativo di grammi 650 a 700, mettete a disfare al fuoco grammi 120 di zucchero e mezzo litro d'acqua unita a una cucchiaiata di kirsch e versatela sopra le mele che avrete collocate avanti in una cazzaruola tutte a un pari. Cuocetele in modo che restino intere, poi levatele asciutte, ponetele in una fruttiera e quando saranno diace, riempite e colmate i buchi lasciati dal torsolo con della gelatina di Ribes numero 739, che essendo rossa spicca sul bianco delle mele e fa belluria. Restringete al fuoco il liquido rimasto nella cazzaruola per ridurlo a sciroppo, indi passatelo da un pannolino bagnato. Aggiungete al medesimo un'altra cucchiaiata di kirsch e versatelo attorno alle mele preparate nel modo anzidetto, che servirete diace. Se non avete kirsch, servitevi di rosolio e se vi manca la gelatina di Ribes, supplite con le conserve.